verso il fiume cantando va. Scende dalla collina, fresca nella mattina, porta la cesta piena, quanti panni andrà a lavar. Lunga è la giornata, lunga un'eternità. Il sole sta per tramontar, lavanderina torna al tuo casolar. Quelle mani gonfie come fai, ti fanno male più che mai. Di lontano appare là il tuo villaggio, un uomo che aspetta già sulla porta mentre il giorno muore. Soltanto un bacio con il tenero verso il fiume cantando va. Quel canto si diffonde dal fiume sulle sponde, come una cantilena fino a sera ripeterà sempre quel ritornello lungo un'eternità. Il sole sta per tramontar, la banderina torna al tuo casolar. Già sulla porta mentre il giorno muore, soltanto un bacio con il tenero con il tempo.